Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo A Est di Berlino di Anna Moscovic, traduzione Valentina Rapetti, messa in scena di Marco Taddei, con Beppe Casales, Irene Lamponi, Vito Saccinto. Quando vivevo in Paraguay fumavo. È un vizio schifoso, lo so. Adesso che sono tornato sto riprendendo le vecchie abitudini. Sono cresciuto qui, in Paraguay. È un posto del cazzo il Paraguay. All'aeroporto il funzionario della dogana aveva attaccati sulle mani dei cerotti sporchi incrostati di pus. Continuavo a guardargli le mani mentre frugava nella mia valigia. Tra l'altro fumava e la cenere gli cadeva in continuazione sui miei vestiti. Sono stato via per troppo tempo, sono stato in Germania per troppo tempo, se queste cose mi disgustano. Grazie a Dio ci sono queste. Le ho comprate all'aeroporto. Cazzo quanto mi piacciono. Quando vivevo qui in Paraguay, fumavo pacchetti su pacchetti di sigarette. Mi aiutavano in qualche modo. Adesso fumo soltanto per festeggiare gli eventi significativi della mia vita. Le nascite, le morti, le svolte esistenziali. Quando scopo fumo? Per i ritorni epocali alle nazioni di origine, in Paraguay. Anche se in effetti non è qui che sono nato, non sono sudamericano, basta guardare. Sono nato in un piccolo ospedale a Berlino nel 1945, esattamente mentre mio padre stava perdendo la guerra. Proprio così, mio padre ha perso la guerra, quindi deve essere un sigaretta. Oh, vi lascio un istante di tempo per capacitarmi, che ci sono una vita intera, quindi fate pure. Volete conoscerlo? È qui, sta qui dentro, nel suo studio. Mi piacerebbe incontrarlo. Io sto per entrare là dentro. Tra un minuto entrerò e gli dirò ciao. Gli farò sapere che sono di nuovo qui, in Paraguay. Nella sua casa. Gli farò sapere che sono tornato a casa. Prima però mi fumo questa sigaretta. Lui vive qui dalla fine degli anni 40. Intendo in Sud America, non nel suo studio. Ancora non sono riuscito a scoprire chi è stato a rimediarci i documenti per l'emigrazione. Credo ci sia stato un invito ufficiale del governo argentino. Io avevo 10 mesi all'epoca, ho il passaporto tedesco con una foto di me, bambino, e il nome Otto Henrik stampato sopra. Chi cazzo sarà Otto Henrik? Vorrei proprio saperlo. O forse no. Ecco cosa mi ricordo. Ci siamo spostati di nazione in nazione per qualche anno e dovunque andassimo c'era sempre qualcuno che ci aspettava. Ci venivano a prendere in macchina. C'erano degli amici che ci accoglievano e ci venivano a prendere. Una casa nuova, iniziavamo una nuova vita, fino a quando non ce ne andavamo per essere ricevuti da un'altra parte, tutto finanziato dal progetto Reinhardt. Non vi sono familiari. È l'organizzazione che ha aiutato la gente come mio padre a scomparire. In Argentina avevamo un appartamentino delizioso, mi piaceva la tata, aveva delle tette enormi e passava continuamente l'aspirapolvere. Quel suono per me era rassicurante. A un certo punto abbiamo vissuto in una casa vicino al mare, sulla spiaggia, in Cile, mi pare. C'erano delle ragazze che indossavano delle gonnelline hawaiane. Io credo che lo scopo fosse risultare attraente, quantomeno suggestive. Quando arrivavano in spiaggia mia madre mi copriva gli occhi con la mano. In Colombia, questa vi piacerà, la giacca militare di mio padre. Quando arrivavamo in Colombia la casa era allagata, era scoppiato un tubo, credo, e dovevamo lasciare tutti i nostri pacchi e le nostre valigie all'ingresso. La giacca militare di mio padre pendeva fuori da una valigia, così la provai. Mio padre mi sorprese, credevo che si sarebbe arrabbiato con me, ma non lo fece. Continuava a ripetere: allora ti piace la mia giacca? Le cose andarono avanti così per parecchi anni. Una serie di destinazioni sudamericane, una serie di simpatizzanti sudamericani. La situazione deve essersi calmata attorno al 1954, suppongo che ormai non ci cercassero più. Ad ogni modo la smettemmo di spostarci da un posto all'altro e ci fermammo qui, in Paraguay. Ma non pensate che abbiamo provato a inserirci nel contesto locale? No, no, no, no. Nel bel mezzo di questa colossale fogna sudamericana, una piccola splendente oasi tedesca. Un'intera comunità di espatriati da queste parti. Amici, camerati, tedeschi, austriaci. C'era addirittura un giornale, Die Morgenpost. Avevamo la nostra scuola, la nostra birreria, e la maggior parte del tempo facevamo finta che Hitler non avesse perso. Lo spagnolo lo parlavo malapena. A dire il vero, no, lo parlavo lo spagnolo, tendo a esagerare, un altro vizio. L'esagerazione e il fumo li ho ereditati da mia madre. A casa nostra c'era sempre una nuvola di fumo che saliva dai posacenere e mia madre non la smetteva mai di ripetere che i vicini ci avrebbero consegnato ai russi o dopo Eichmann agli israeliani. Cosa ho ereditato da mio padre? Beh, ancora oggi mi sento uno stupido per non essermene reso conto, per non aver messo insieme i pezzi, per aver vissuto per così tanti anni una vita normale qui. D'altronde la nostra sembrava una vita normale. Mio padre aveva il suo lavoro, eravamo benestanti, avevamo una grande casa con tanto di piscina, servitù. Forse eravamo addirittura felici. Non lo so. Non c'era niente che mi sembrasse... I bambini hanno una capacità davvero notevole. O accettano le proprie circostanze o soccombono. Chi è che l'ha detto? Spero non sia stato Hitler, perché a volte mi capita di citarlo. Io sapevo che c'era qualcosa, è una parte della guerra di cui non si parlava. Se facevo troppe domande sulla guerra, mio padre scuoteva la testa, ma in fondo se facevo troppe domande sulle ragazze sudamericane ottenevo la stessa risposta. E mio padre di per sé era talmente... Aveva un repertorio di frasi che gli piaceva ripetere, tipo: lo sai che si cena alle 7, lo sai che non si cammina sul prato. Indossava sempre gli stessi completi neri, seguiva una prassi incredibilmente metodica nel pulirsi le unghie. La mia stanza era accanto a quella dei miei genitori, il loro letto era attaccato al mio muro e ogni mercoledì notte lo sentivo cigolare. Per tutta la mia infanzia ha cigolato 16 volte alle 9 in punto. Era noioso a questi livelli, mio padre. 16 botte una volta alla settimana, la questione è chiusa. Ecco chi era mio padre. Se lo avresti incontrato, avreste pensato, ecco uno di quei burocrati la cui vita si potrebbe riassumere in una manciata di frasi. Il fatto è che è stato solo verso la fine dell'adolescenza, intorno ai 17 anni, che un mio compagno di scuola ha lasciato trapelare qualcosa. Si chiamava Herman, questo mio compagno. Herman era un po'... insomma, Herman era un esteta, un intellettuale, andava benissimo a scuola, in classe si annoiava sempre, girava gli occhi all'indietro, leggeva Rilke, i poeti della Big Generation, e fumava come una ciminiera, diceva che i sudamericani sapevano scopare sul serio. Era talmente più sofisticato di me, di tutti noi, di lui ci stava male. Era circondato da adolescenti esageratamente entusiasti e spontanei, la cosa gli dava la nausea. Mi ricordo che ero molto fiero di stargli simpatico, o quantomeno di risultargli tollerabile, anche se credevo che lui fosse povero. Eravamo a lezione di scienze. Stavamo sezionando degli scarafaggi per osservare l'interiore. E Herman disse una cosa tipo: ecco che cosa ha fatto tuo padre con gli ebrei. Era una specie di battuta. Rimasi perplesso, non l'avevo capita. Gli chiesi di spiegarla ed ecco che cosa mi rispose. È un'analogia. Un'analogia, è presente? Un parallelismo. Non dico che sia proprio azzeccata, ma mi pareva abbastanza efficace da suscitare in te una reazione, come dire, emotiva. Ma di che stai parlando? Di tuo padre. Il mio è stato comandante in Polonia, certo, neanche lui può definirsi un eroe. Di che stai parlando? Di tuo padre, vado troppo veloce per te. C'entra mio padre. È come se avessi cagato nel bel mezzo di una stanza durante una festa e tutti noi stessimo facendo finta che non è successo niente o che tutto sommato non ha fatto niente di male. Capisco, non è che questa è esatta e giustificata come analogia, però è così, per buttarla anche un po' sul volgare. Ma non so di cosa stai parlando. Tuo padre, durante la guerra. Ma non lo sai che è successo in guerra? Cosa c'è da sapere? Lasciamo perdere. Non so perché sto... tu rientri la tabella e io porto via il vassoio. Allora va bene, la tabella la riempio io, però lo sappiamo tutti e due che tu sei più bravo. Mio padre era nell'esercito durante la guerra. Sì, certo, sì. È questo che ti ha detto? Sì, è questo quello che mi ha detto. Ma che c'è, Erma? Che c'è? Cioè, di che stai parlando? Stai parlando di mio padre? Stai dicendo che mio padre... Che vuoi dire? Ma dimmi che vuoi dire, dimmelo! Padre, era un medico dell'SS. Lo sapevi? Non lo sapevi? Lui no, lui era un ufficiale medico in Russia, poi è stato promosso capitano, è tornato est, è stato funzionario. Sì, sì. Ma cosa? No! Certo che è stato est, perché è stato trasferito nei campi. I campi, sì, la rampa, le selezioni, tu a sinistra, tu a destra. Ma sai cos'è Auschwitz, vero? Il campo di concentramento, gli ebrei, i dottori, gli esperimenti. È per questo che tu vai così bene in scienza, è il risultato tuo. Probabilmente anche se prestato servizio presso alcuni campi di lavoro, non è che ti mandavano subito a Auschwitz, bisognava stare attenti a chi ci mandava, perché ci sono stati medici che si sono suicidati là, medici dell'SS. Lui non era dell'SS. Non era dell'SS, la sua giacca, la giacca della sua uniforme, della Wehrmacht. Probabilmente ha scambiato la sua uniforme con una dell'esercito quando gli alleati stavano per entrare a Berlino. Arrivano i russi, forza da Berlino. No, è la sua giacca, gli sta la sua. E allora probabilmente ha conservato una vecchia. Non lo so. Tu ha guardato. Non mi sembri uno stupido. stupido. Non ti sei mai chiesto perché sei in Paraguay? Abbiamo perso la guerra. Se tutti quelli che avessero perso la guerra fossero andati via dalla Germania, non ci sarebbe nessuno là. È uno scherzo. Cioè, non è possibile che mio padre... Stai dicendo che nei campi lui... Ma se era un dottore, non capisco. Guarda, non è possibile che mio padre... Lasciamo perdere allora. Quello fu un momento di svolta decisivo nella relazione tra me e mio padre. Uno può scoprire, almeno credo, una serie di cose sul proprio padre. Che ne so, che si scopa la domestica, per esempio. Il padre di Erwin si scopava la domestica, o le domestiche. Il mio no. Il mio padre non ha mai fatto niente di sconveniente in vita sua, a parte ovviamente condurre una serie di esperimenti sui prigionieri ebrei ad Auschwitz tra l'estate del 42 e l'autunno del 44. Gli inoculò il tifo, tanto per dirne uno. E non c'era nessun caso di tifo nel blocco ospedaliero, ma lui voleva studiarlo, così lo inoculò a 4 ebrei olandesi. Operò una serie di donne con una dose minima di anestetico e senza avere una preparazione chirurgica specifica, rimosse loro le ovaie. Però di queste cose ne avete sentito parlare parecchio, vero? Inoltre mio padre prese una serie di appunti dettagliati sui suoi esperimenti che lui sperava avrebbero migliorato la nostra comprensione delle patologie umane e contribuito ad accrescere il nostro bagaglio di sapere scientifico, il cosiddetto progresso. Il che, devo ammetterlo, è di gran lunga peggiore che scoparsi la domestica. È talmente peggiore che scoparsi la domestica da aver rivoluzionato il nostro concetto di male. Ecco chi è mio padre. Capite? Adesso avete capito perché fumo, penso di averne il diritto. Ricapitolando, siamo in Paraguay, ho 17 anni e sono a scuola. La lezione di scienza è appena finita, sono impaziente, cammino su e giù, ho fumato una sigaretta e sono rimasto davanti agli scalini d'ingresso ad aspettare Herman, che sto programmando di... un eufemismo di uccidere, deportare, no? Scherzo. Scherzi a parte, volevo parlare con Herman di quello che mi aveva detto durante la lezione di scienze, così rimasi davanti agli scalini d'ingresso ad aspettarlo e visto che non usciva io andai a casa sua. Posso offrirti qualcosa da bere o vuoi solo picchiarmi? Se mi picchi non importa, è questa attesa che mi snerva. Adesso ti do un libro a cui dare un'occhiata, va bene? È sulla mensola. Adesso vado verso la mensola e ti prendo il libro. Me lo sono fatto spedire dalla Germania, è in tedesco, però puoi solo guardare le immagini. Posso dartelo? Smetti! Immagino che ti abbia fatto entrare mio padre, non è un tipo molto accogliente, mi dispiace. Comunque benvenuto. Qui è bello averti qui. Anche se, viste le circostanze... Lui lavorava in... Lavorava in? Prima di entrare nel settore immobiliare, lui lavorava in ospedale a Saione. Lui ha delle riviste mediche sue nel suo studio. Io le ho guardate, ma le riviste non venivano dall'ospedale. Venivano da lì. Cristo, mi dispiace. Però stai su, fumati una sigaretta o preferisci bere? Ho un whisky qui da qualche tu parte. Hai le fotografie. Eccolo. Cos'è? Lettere a un giovane poeta. È un libro sulla soluzione finale. Si subito la soluzione finale. Quella per gli ebrei. È presente? C'è una foto qui da qualche parte, se riesco a trovarla. Questa è la rampa. Il blocco ospedaliero. Sono cadaveri. Ecco la foto che volevo farti vedere. È stata scattata nel 1943. Questo è il comandante del campo di Auschwitz, Rudolf Franz Höss. Il medico capo, Edvard Wild. E accanto a lui, sulla sinistra, c'è suo padre. Prendilo pure. Mi dispiace, non avrei dovuto dirtelo così a lezione. È che... volevo farti... Io penso che tu sia... Non sei come gli altri. Però cerca di darti una calmata prima di tornare a casa. Porca puttana! Tornai a casa. Mio padre era inginocchiato sul prato che guardava l'erba. Si stava seccando in alcuni punti lungo il perimetro e lui stava dicendo a uno dei giardinieri di annaffiare di nuovo. Mi chiese com'era andata la mia giornata a scuola. Io gli chiesi come si era trovato ad Auschwitz. Mi ricordo il rombo del sangue nelle orecchie e mio padre che mi gridava dietro mentre entravo in casa. Mi seguì e io rimasi là nell'ingresso e iniziai a fargli delle domande sulla guerra. Furono le prime vere domande che gli feci sull'argomento. Gli dissi che volevo sapere degli errori che aveva commesso nei campi. Lui non rispose. Lui si limitò a restarsene lì, in piedi, a guardarmi con quelle sue palpebre rosa e le unghie ben curate, le spalle leggermente curve. Lo chiamai assassino. Lui mi disse di non alzare la voce. E tra di noi ci fu uno scontro fisico. Gli dedi un paio di colpi, gli feci un occhio nero e gli spaccai il labbro. Lui più che altro cercava di difendersi, non mi picchiò, si limitò a voltarsi verso il muro e a lasciare che lo colpissi. E per tutto il tempo sullo sfondo sentii mia madre che urlava. E dopo iniziò a ripetere: che cosa è successo? Cosa è successo? E mio padre disse: è finita, è tutto a posto, è finita. Dovette farsi fare una radiografia perché respirava male, pensava che gli avessi fratturato una costola, così lo accompagnai in macchina all'ospedale. Mi ricordo l'ospedale con i corridoi stretti e sporchi, senza un dottore, mia madre e mio padre seduti là sulle sedie di metallo e lei che lo abbracciava e il naso di lui incrostato di sangue. Aveva un'aria molto sconfitta. Aveva già 51 anni all'epoca. Più tardi presi la macchina e tornai a casa di Herman. Le luci erano tutte spente, io detti un colpo col pugno alla finestra della sua stanza. Volevo solo bussare, richiamare l'attenzione di Herman, ma invece, ecco io... Hai appena rotto la finestra della mia stanza. Non stai per picchiarmi, vero? No, perché nel caso vorrei togliermi prima gli occhiali. Stai per picchiarmi? Ti sei tagliato la mano, dovresti fartela guardare da qualcuno. Cos'è successo? L'hai picchiato? L'hai preso a botte? L'hai picchiato. Va bene? Dov'è adesso? In ospedale? Sta bene? No. Piangere. Non piangere. Va tutto bene. Va tutto bene. Ero arrabbiato. Lui era mio. E come figlio, in quanto figlio, io... Ovviamente ho dei ricordi di infanzia con lui. Mi leggeva Goethe, anche Mein Kampf. Sto scherzando, Mein Kampf. Mi aveva mandato alla scuola tedesca ad Asunción, dove ci insegnavano delle citazioni tratte da Mein Kampf, però mio padre, lui mi leggeva i libri per bambini, Il Piccolo Principe e Max e Moritz. Non volete sentirle queste cose, vero? Che era un bravo padre. Scoprii che mio padre era in Paraguay a 17 anni e poi che cosa successe? Per un periodo fu un vero e proprio disastro, il tracollo totale. Ma adesso vi racconto che cosa fu a fottermi del tutto. La vita continua. Mio padre continuava a indossare i suoi completi neri per andare a lavorare, si scopava mia madre una volta alla settimana e la sera mangiava una buona cena. Poi si addormentava nello studio con la radio accesa e il giornale appoggiato sulla faccia. I domestici annaffiavano il prato due volte alla settimana anziché una, il prato era verdissimo e mio padre rimaneva fuori ad ammirarlo. A parte le ferite, il labbro spaccato e i lividi sull'occhio, la vita semplicemente continuava a scorrere. Non lo picchiai più. I domestici strofinarono la carta da parati dell'ingresso e cancellarono le tracce di sangue. Dopo quell'episodio gli feci delle domande sulla guerra. Ogni sera alle 7 in punto cenavamo insieme. Era quello il momento in cui discutevamo dell'argomento. Gli dicevo cose del tipo: come hai potuto? Oppure, non lo so, stavo leggendo i libri che mi aveva prestato Herman e gli dicevo: come hai potuto fare questo o quello? Come hai potuto selezionarli? Erano queste le cose che gli... come hai potuto selezionare delle persone? E lui mi rispondeva: tutti i medici dovevano fare il servizio alla rampa, tutti. A nessuno piaceva, ma se non lo avessimo fatto si sarebbe creato il caos sulla rampa, sarebbe stato molto peggio. Quando lo spinsi a dirmi come aveva potuto selezionare la gente per le camere a gas, mi rispose: ma tu non capisci, noi selezionavamo la gente adatta a lavorare nei campi. Se non l'avessimo fatto, sarebbero stati tutti condotti alle camere, tutti quanti. Noi facevamo le selezioni in base alle necessità di manodopera del campo, tutto qua. E gli chiesi: ma perché mai sei andato in quel campo? E lui rispose: fui trasferito. Dopo essere stato ferito in Russia, fui arruolato nelle Waffen SS e mi trasferirono. E gli chiesi: ma allora perché ci sei rimasto? Lui mi disse: quando arrivai là e vidi, volevo andarmene via. Ero scioccato, me ne volevo andare. Ma i miei colleghi mi dissero di non essere stupido, che mi ci sarei abituato, che sarebbe stato pessimo per me andarmene, per la mia carriera, per il superiore che mi aveva raccomandato. Sarebbe stata una cosa molto spiacevole. E per tua madre, a Berlino, avevo lei là, avevo una moglie. Una volta mi disse: avevo fatto un giuramento a Hitler. Quando gli chiesi degli esperimenti, mi disse una cosa del genere: tu devi capire che là dentro condurre gli esperimenti era una cosa da niente, non valeva neanche la pena parlare, prima o poi li avrebbero condotti tutti alle camere, quindi non era niente. E non puoi immaginare che opportunità, in nessun'altra circostanza sarebbe stato possibile utilizzare dei soggetti umani a quel modo. Io potevo esercitare la professione medica, acquisire esperienza chirurgica, ma tu questo dovresti capirlo, sei un tipo scientifico. Se avessi scoperto qualcosa sul tifo, avremmo potuto tenerlo sotto controllo, sia nei campi che sul fronte orientale. Era un modo per dare il mio contributo alla letteratura medica tedesca, alla guerra. Poi continuava a insistere sul fatto che io non capivo, che non mi rendevo conto, che quelli erano altri tempi. Alla fine io urlavo: ma come hai potuto rimanere là? Come hai potuto rimanere là? Lui afferrava le posate e le scagliava contro il piatto. E mia madre diceva: non urlargli contro, guarda, non lo fai innervosire. Una volta mia madre mi trascinò nell'ingresso durante la cena. Disse: tuo padre è stato ferito al fronte, gli hanno sparato in Russia. Io non volevo che ce lo rimandassero. Sapevo che lo avrebbero ucciso se lo avessero rimandato là. E io sarei rimasta vedova con niente. Io lo implorai di rimanere al campo perché gli era tanto più al sicuro. Credo che per lei questo spiegasse tutto. Il punto è che le cose andarono avanti così per un po' di tempo, le liti a cena, le solite domande ripetute fino alla nausea, fino a quando un giorno semplicemente smisi di discutere con lui. Smisi di discutere con lui. E la vita continuò. Non lo so. Non so cosa avrei dovuto fare. Consegnarlo alla polizia. Consegnarlo alla polizia. Quello che so è che da quel momento in poi, da quelle cene tranquille in poi, durante le quali non gli facevo più domande e lui parlava di un pezzo di proprietà che aveva venduto, acquistato col tintinnio delle posate, gli avai dei domestici, è stato allora che io ho iniziato a sentirmi colpevole, perché io me ne stavo seduto di fronte a mio padre a cena, lo guardavo parlare, ingoiare il cibo e ridere, e iniziavo a riconoscerlo. Da quando avevo saputo, non ero più riuscito a riconoscerlo, avrebbe potuto esserci chiunque seduto là di fronte a me. Ma ad un certo punto io iniziai a fare retromarcia, a vederlo come mio... E volevo... Ma non potevo vivere in quel modo. Avevo bisogno di... Questa parte vi piacerà. Herman, il mio amico Herman, diventò un mezzo per... Giravano voci che lo sapevano tutti in realtà, ma io e lui eravamo in confidenza, perciò io ne avevo la certezza. Herman diventò un mezzo per... Dovete ricordarvi che io ero in cerca di un modo per prendere le distanze da mio padre. Era il compleanno di Hitler. Mio padre e tutti i vecchi nazisti ogni anno festeggiavano il compleanno di Hitler alla birreria. Natale e il compleanno di Hitler erano le uniche occasioni in cui mio padre si concedeva di ubriacarsi. E mentre lui era fuori a festeggiare, Herman venne a trovarmi a casa e io lo portai nello studio di mio padre. Voglio che la mia gioventù sia giovane e bella. Chi l'ha detto? Jeffrey. No, stupido. Hitler. È il compleanno di Hitler. Perché mai dovrei citare Kennedy? Ogni anno è il giorno del compleanno di Hitler. Mio padre mi porta nel suo studio e mi stringe la mano, a me e ai domestici. In questi giorni mi parla esattamente come parla con loro. Non è vero. Invece sì, c'è una ragazza da noi in questo periodo, la figlia della cuoca. Lavora da qualche parte in una famiglia in Messico. Beh, mi prepara certa roba in cucina, certi drink, amaria la frutta, certi biscotti secchi che io butto giù solo per educazione. E insomma, vieni da me, mi porta questa roba, poi scappa via e si nasconde. Io non capivo perché. Poi un giorno ho capito. Ho sentito mio padre che parlava con lei. Le parla esattamente come parla con me. È come se io fossi un estraneo di cui è obbligato a prendersi cura. Credo che questa ragazza sia dispiaciuta per me. Ma siamo tutti dispiaciuti per te, tutti. Quest'anno non mi ha convocato. Sono andato nel suo studio dopo la scuola e la porta era chiusa. Non so se c'è un motivo specifico o se l'ho deluso così in generale. piacerebbe andarci in Messico. Chissà come si vive lì. Fanno i due passi nel deserto. Andare a trovare una ragazza. C'è una fotografia di Hitler sulla scrivania di tuo padre. Sì. Delizioso. In una cornice d'oro. Una fotografia tua e una fotografia di Hitler. È un regalo. Di Hitler. Tu che avresti fatto? Ti capita mai di pensarci? A cosa? Beh, il partito dice che hai un futuro radioso davanti a te. Che se accetterai di andare a lavorare in un campo di prigionia, ti raddoppieranno lo stipendio. Beh, io non lo so che cosa farei. Beh, ci andrei. No, non ci andrei. Sì, ci andrei. Ma non ci andresti. Perché no? Hai l'asma, hai gli occhiali. Se... poi ti piangi. Ma vaffanculo. Tu ci andresti, lo sai che ci andresti. Tu avresti inneggiato Sigail in coro con tutti loro. Vaffan SS, Luftwaffe, Gestapo. Sì, bravo la Gestapo. Lo sai che l'avresti fatto. Tu sei tedesco dalla testa ai piedi. Ma perché tu sei sudamericano? La mia anima è sudamericana. Ma tu sei una frana degli sport, una frana. Sì, esatto, esatto, perché sono una frana degli sport. Solo per questo che mi hanno dato il passaporto. Dai, facciamo di qui, andiamo a fare un giro in macchina. Che ci stiamo a fare qui, nel suo studio? Odio stare qui. Ci sono gli alcolici. Ma quelli li troviamo più fuori. Dove? Non so. In quei locali. In quei locali dove vai tu? È lì che vuoi andare? Mi ci porteresti in uno di quei locali? Perché? Fammi vedere. E ti conosco. Perché non mi fai vedere cosa fai? E fammi vedere. No, sei ubriaco. No, non sono... cioè, sì, sono ubriaco, ma fammi vedere. Basta con queste cretinate! Sei ubriaco? Non sono ubriaco, sono troppo nervoso per essere ubriaco. Lasciami fare. Tu lo vuoi? Ti conosco. Io lo so che ti piace. Allora? È una bella immagine, vero? I figli di due eminenti nazisti che si succhiano l'uccello a vicenda da qualche parte in Paraguay! Credo che neanche essere impiccati dagli israeliani sarebbe stata peggiore come ricompensa. Credo che non avrei potuto scegliere niente di meglio per disonorarli. Quando mio padre ci trovò rimase sconvolto. Sentì la porta dello studio aprirsi, alzai lo sguardo, me lo ritrovai lì davanti nel suo vestito nero, in piedi sulla soglia. Io continuai come non mi fermai. È strano, perché se un genitore ti sorprende a fare sesso, la reazione immediata è smettere. E io per un istante dovetti contrastarla quella reazione, ma poi riuscii ad andare avanti. Lui se ne stava lì fermo sulla soglia e guardava. E quando se ne andò chiuse la porta. Poi ovviamente successe il finimondo, crollò tutto a pezzi, ma non solo per me, anche per mio padre. Non mi guardava più, non pronunciava più il mio nome. Quando mi incrociava nei corridoi teneva lo sguardo basso. E mia madre si rinchiuse in camera da letto a piangere e il suono del suo pianto riempiva la casa. Lo lasciavo uscendo di casa e lo ritrovavo quando rientravo. Andò avanti così per settimane. La loro vergogna e la mia... beh, anche se dopo averlo fatto non ero poi così entusiasta. Che c'è? Che c'è? Ma non so. Che hai? Usa il linguaggio, no? È a quello che serve. Fa caldo fuori. Un caldo asciutto, ma immagino che tu non lo sappia perché non sei uscito di casa. È successo qualcosa con tuo padre? È solo che quando penso a tutto quello che ha passato a Berlino, agli alleati che pressano, perdere la guerra, Norimberga e tutti i suoi amici giustiziati o consegnati ai russi per essere uccisi o torturati. Cosa fanno i russi? Uccidono, torturano. E poi il Paraguay, dirigere una società immobiliare in un avamposto coloniale sudamericano. Niente male come prospettiva. Il Führer sarebbe stato sempre il Führer, è Deutschland, Deutschland, Uber, alle. Passamela. E adesso come si è ridotto? La sera va a cenare con i domestici, in cucina, sempre se c'è, con i domestici. E sono settimane che non smette di lavorare mai, lavora fino a tardi, e probabilmente sta facendo soldi a palate, i profitti saranno alle stelle grazie a me. Gli impiegati si staranno chiedendo, ma cosa cazzo sta succedendo? Tutta questa vampata di entusiasmo per il lavoro, così all'improvviso. Beh, hai visto, funziona, no? Che cosa? Il tuo esperimento. Dai, lascia perdere. Dov'è adesso? Di sotto. Allora ci sentirà di sicuro. Gli ho detto che me ne voglio andare. Te ne vuoi andare? Sì, me ne voglio andare, voglio uscire da questa casa, andarmene da questa nazione, possibilmente. Vuoi andarmene da questa nazione? Gli ho detto che vorrei andare in Germania. In Germania, perché? Perché no? Bravo. Che bella idea. Così non perdi dimestichezza col tedesco e magari vai anche a conoscere qualche parente. Vai a vedere dove è cresciuto tuo padre, dove ha conosciuto tua madre. Dov'è che si sono conosciuti a Vance? Non sto andando in Germania, sto uscendo dal Paraguay. Il progetto Reinhardt mi finanzierebbe se andassi là, io i soldi di mio padre non li voglio, perciò in Germania sia. Allora te ne vai? Mi lascerai qui? Mi dispiace lasciarti, ma in fondo il Paraguay è un posto di merda, diciamo. Un'ora fa sono andato nel suo studio e gli ho detto me ne voglio andare. Lui stava lavorando non so cosa, ai suoi conti forse, comunque ha continuato a lavorare e mi ha detto che avrebbe dato disposizioni. Pensavi che sarebbe successo? Che ti avrebbe cosa? Stretto la mano? No, ma pensavo... Che ti avrebbe dato una cazzo di medaglia? Allora? Comunque io parto. E parto! Parti! Vai in Germania! Vai a New York! Vai a Gerusalemme! Tuo padre è un criminale di guerra e lo sarà per il resto della tua vita! E tu passerai metà della tua vita a sperare che muoia in un incidente stradale per poter pisciare sulla sua tomba! E l'altra metà ad aver paura che riescano a estradarlo! Ma guardati! Guardati! Hai fatto tutto questo per dispiacerlo, per disonorarlo, non so. No, che ci sei. No, non l'ho fatto per... Sì, è vero. No, non è vero. Su quel pavimento del cazzo, no, non so. No, io volevo solo. Io volevo. Sì, sapevo che sarebbe andata così. Sapevo che avrebbe reagito così. Sapevo e che adesso avrebbe... che è andata così. Tu sei. Ma io sono. Io non lo so. Non lo so. Lui è tuo padre. E tu vuoi solo che lui sia fiero di te. E questo non ti rende complice o qualcosa di simile. Tu non sei per niente come tuo padre. Forse un po' lo sei. Tu non sei per niente come tuo padre. Io non direi. Guarda che non sono un... Io non sono... Però il fatto che mio padre pensi che lo sia è già qualcosa, no? È già qualcosa che pensi che lo sia. Ma tu sei fortunato perché tu non assomigliavi mai a tuo padre! Ero un po' confuso in quel momento. Povero Herman. Comunque non ci avrebbe messo tanto a incontrare qualcun altro. E così partì. All'epoca avevo 17-18 anni, andai a Berlino Ovest, in Europa. Avevo un passaporto tedesco e così partì. Il mio viaggio in Germania lo finanziò il progetto Reinhardt. Io accettai il denaro da un'organizzazione nazista, ma pensavo meglio che lo diano a me piuttosto che a qualcun altro. Mi portai dietro pochissime cose quando partì, pochissimi ricordi. Da allora in poi mi feci chiamare col nome riportato sul mio passaporto, che forse ve lo ricorderete, era Otto Henrik. Non che il cognome di mio padre sia particolarmente degno di nota, non è un cognome di quelli noti, tipo Eichmann o Mengele, Hitler. È solo che non volevo usarlo. Dopo che me ne fui andato, ci fu un periodo in cui rasentai la felicità. Un periodo di... Quando arrivai a Berlino Ovest, presi in affitto una stanza nel settore americano, mi iscrissi alla Libera Università di Berlino e mi buttai a capofitto negli studi. A dire il vero, all'inizio ci fu un breve periodo in cui ero nella Germania occupata, con tutti gli edifici bombardati, i soldati russi che erano stati l'incubo di mia madre durante tutta la mia infanzia e la mia adolescenza, il muro di Berlino, il Reichstag. Camminavo per questa città che mi era così familiare. Dopo questa prima fase mi buttai a capofitto negli studi. Optai per le materie scientifiche, chimica e biologia. Ce la misi tutta. Cercavo di comportarmi come uno studente qualsiasi. Ero proiettato verso il futuro. E in quegli anni Berlino Ovest, la Germania, era un tale caos, talmente derelitto, c'erano gli americani, i russi, che potevo passare inosservato. Non ero nient'altro che uno dei tanti tedeschi post-bellici. Non mi piaceva parlare della guerra, ma del resto a chi piaceva allora? Mi abituai a riferirmi ai miei genitori parlandone al passato. Una volta qualcuno mi chiese come era successo, gli risposi: un incidente stradale. E da quella volta in poi continuai semplicemente a ripeterlo. Avevo una serie di amici con i quali parlavo di argomenti superficiali, niente politica, niente storia, non entrai a far parte di nessun gruppo studentesco, uscii con svariate bionde non degne di nota, preferivo i corsi tenuti da professori giovani che avevano ottenuto i loro titoli dopo la guerra, ero uno studente in gamba, lavoravo sodo, mi ero gettato negli studi a capofitto. Quando non studiavo, bevevo. Sono stati 3 anni di rumore bianco. All'ultimo anno avevo la media più alta della classe. I miei professori mi raccomandarono di iscrivermi a medicina. Dicevano: prendi medicina, sei portato, hai il temperamento giusto. Congratulazioni per la tua media, spero che non prenderai economia, non con quei voti. Ti scriverò una lettera di referenze. Conosco il capo del dipartimento di medicina, sono sicuro che verrai ammesso. Mio fratello è un medico, perché non ti prendi una birra con lui nel fine settimana? Ti spiegherà come funziona la carriera. Cosa pensate che abbia fatto? Feci la domanda per entrare alla facoltà di medicina, fui ammesso e in autunno iniziai a frequentare le lezioni. Ero uno studente di medicina decisamente in gamba. Fu subito evidente che avevo una predisposizione naturale. Venivo spesso indicato come un esempio da seguire dai miei professori. Gli altri studenti mi invidiavano, mi ammiravano. È proprio vero, ero bravissimo. Bravo in laboratorio, bravo agli esami. Tra l'altro scoprii di essere l'unico a non aver mai vomitato nella fontanella fuori dall'aula magna. Eccomi, nel mio camice bianco. Mio padre indossava un camice bianco sull'uniforme dell'SS quando lavorava nei campi. Durante il secondo semestre assistetti alla dissezione di un cadavere. Eravamo in 4, 3 fisici tedeschi e io in piedi attorno al corpo di quell'uomo, e io partecipai alla sua dissezione e pensai: non posso. Perché questo è quello che ha fatto mio padre. Non posso. I treni. Non riuscivo a smettere di visualizzare me stesso sulla rampa. Abbandonai gli studi, abbandonai la facoltà di medicina, non feci più. Io ci fu un lungo periodo di nulla, di sussistenza. Fumavo tantissime sigarette. Nelle stanze in cui vivevo c'erano bruciature di sigaretta dappertutto. Scoprii che non mi andava di muovermi. Rimanevo disteso sul pavimento, non mi andava di muovermi. E spegnevo le sigarette là dove stavo. Ho perso tutto il deposito che avevo pagato per questo motivo. Tutte le bruciature di sigarette che avevo fatto sul tappeto. Incassavo il mio assegno del progetto Reinhardt una volta al mese. Andavo a zonzo per la città. Mi domandavo se tutta la mia vita sarebbe stata così, una sorta di fuga catastrofica. È stato allora che l'ho conosciuta. Sarah Kleinman. La incontrai nell'archivio della Germania federale. Avevo preso l'abitudine di frequentare le biblioteche, gli archivi e di cerchiare il nome di mio padre nei documenti di guerra, nelle testimonianze dei sopravvissuti, nelle trascrizioni del processo di Norimberga. Stavo frugando tra i verbali delle deportazioni e dei trasporti e lei si presentò. Stai fumando nell'archivio. Prego? Stai fumando nell'archivio. La spengo subito. No, non sono un archivista. A chi serve? Sto facendo delle ricerche come te qui nell'archivio. Ti ho visto seduto lì, sul pavimento, in mezzo a tutti quei documenti. Se gli stai fumando un centimetro di distanza e butti la cenere sul pavimento, ho pensato che sono interessanti. Cosa? Quei documenti. Ah, sì. A quanto pare ci passi parecchio tempo sul pavimento a sbucciare quei documenti. Quindi mi sono chiesta se hai trovato quello che stavi cercando. Come, scusa? Stai cercando... La settimana scorsa è venuto un uomo dalla Norvegia, si è seduto lì, proprio come te, fino a quando non ha trovato il verbale del trasporto. Ah, quello. Ma scusa, ma anche tu sei qua per delle ricerche? Sì, io. Io sto cercando in tutta la documentazione relativa agli alloggi. La mia famiglia viveva qui a Berlino, quindi ce l'avranno avuto una casa. Ma prima sono venuta qui, in questa sezione. Qui. Ho trovato mia madre. Ho trovato il verbale di un trasporto fatto lo stesso giorno in cui so che lei è stata mandata a Est. A Est? Sì. Nei campi? Sì. Ma tu stai dicendo che la tua famiglia è stata deportata? Ma sono noi familiari che sono... No, la mia famiglia no. Sei tedesco? Sì. Mi spiace, non siete in Italia, siete rimasti dopo la guerra. No, non ci sentivamo poi così accolti. No, no. Infatti ce ne siamo andati. Siamo emigrati negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti d'America. Sì, ho capito. Nel 1945, quando gli alleati liberarono i prigionieri nei campi. Okay, mia madre incontrò mio padre. Lui era nel 14° reggimento, la trovò in uno dei campi profughi e loro, si innamorarono. Lo so, la Germania post-bellica è uno sfondo anomalo per una storia d'amore, però fatto sta che loro sono riusciti ad innamorarsi e si sono sposati e poi mia madre è emigrata negli Stati Uniti. Anche tuo padre è un... Sì? Tua madre è sopravvissuta ai campi. Quale? Auschwitz. E quindi i tuoi genitori cosa facevano durante la guerra? Erano... Mio padre era... Lui era... un nazionalsocialista. Io sto studiando gli ebrei, l'ebraico, per questo che sto facendo delle ricerche. E ha prestato prestato servizio durante la guerra. Era un dottore, un ufficiale medico, sì. È stato in Russia la maggior parte del tempo sul fronte occidentale e poi dopo la guerra ha lavorato nel settore immobiliare fino a quando c'è stato un incidente in autostrada. Mi dispiace. Ma tu quindi fai ricerca? Sì, faccio ricerca, esatto. Lui, mio padre, è morto, quindi io non posso chiedere se è stato coinvolto nei reinserimenti, nelle deportazioni. Ah, e pensi che possa essere stato coinvolto? Sì. Anche mia madre è morta prima che io potessi chiederle di lei, della sua famiglia. È per questo che sono voluta venire qui, in Germania. Per vedere dove viveva, per conoscere i tedeschi. Ah, io sono... E mi fa piacere che... mi fa piacere che tu sia... Che tu senta di voler... Benvenuta! Grazie! Otto... Otto Henry. Sarà Clayman. Sarò ebrea! Ah, quindi la cosa era imbarazzante. Era molto imbarazzante, ma allo stesso tempo mi esaltava. Era la prima ebrea che avessi mai incontrato. E prima di allora l'avevo visto soltanto sulle fotografie e sui disegni anatomici nelle riviste mediche di mio padre. La madre di Sara, Inge Rosenthal, fu deportata ad Auschwitz il 3 settembre del 1943. Mio padre era lì, al campo, in quel periodo, quindi... Esatto. Non direi che sia stata una cosa premeditata, ma... Dopo il nostro primo incontro io iniziai a trascorrere parecchio tempo con Sara. L'aiutavo a fare le ricerche negli archivi e beh, insomma la seguivo un po' dappertutto, quindi penso che non ci sia da sorprendersi se il desiderio di conoscerla, di chiederle scusa al posto di mio... Quando me ne andai dal Paraguay mi portai dietro un ricordo di mio padre. Disse a Sara che ce l'avevo nel mio appartamento e lei volle vederlo. Ma è in buone condizioni. Dici? Ma la teneva tutta bella impacchettata. È normale. Ma chissà quante ce ne saranno di queste negli armadi, nelle cantine in Germania o in Austria o anche in Polonia. Questo è il distintivo della divisione Brandeburgo. Già. Erano dei gran fumatori. Come te. I tedeschi che si arresero al reggimento di mio padre erano della Brandeburgo. Mi ha raccontato che elemosinavano sigarette in continuazione. È parecchio decorato per essere di un non combattente. Faceva il medico. Questa è la croce di ferro, seconda classe, il nastro della campagna d'inverno. Un distintivo per feriti. È stato ferito? Sì, primavera del 42, ferita da un fuoco alla spalla, poi è tornato a combattere. Sul fronte orientale? Sì. Non ce l'hai una fotografia? No. No? Beh, no, neanche una. Io e lui non andavamo molto d'accordo, noi non ho conservato tante cose sue. La giacca sì, la giacca l'ho tenuta, ma forse per te è difficile da capire se non hai una famiglia che non ti piace. Beh, non è che mia madre mi piacesse poi così tanto. No? No, non tanto. Perché? A te perché non piaceva tuo padre? Ma perché lui era un nazionalsocialista. Ma da bambino cosa poteva interessarti? Ma allora perché questa l'hai conservata? No. Una cosa sentimentale? No, è solo... No. Ti sta? Che cosa, la giacca? Sì. Non so, l'ho provata da bambino, adesso non so come. Sai che non ci posso andare in giro? Grazie per avermela fatta vedere. Figurati. La vuoi? La giacca? Sì. No, no, non penso di poter prendere la giacca di tuo padre. Ma perché no? Se non la prendi tu finisci in un museo, quindi è giusto che la prendi tu. Posso barattarla con te? Barattarla con me? Sì. Ma che cosa? Spera, ho preso due biglietti per uno spettacolo a teatro. Mi vuoi invitare a teatro in cambio della giacca nazista di tuo padre? Sì, sabato. Ci vuoi venire con me? Mi stai chiedendo di uscire con te? Sì. Ma che cosa direbbe tuo padre? È il tuo? Ma puoi prenderla lo stesso? No, io ci vengo. È un po' perverso, ma si può fare. Cioè, voglio dire, il baratto è perverso, non che noi... Va bene. Grazie per la giacca. Per tutta la settimana il mio cervello fu attraversato dai versi d'amore di Goethe che avevo imparato a scuola, la poesia romantica tedesca, certi discorsi di Hitler mescolati l'uno all'altro che sciabordavano nel mio cervello. C'era anche il senso di colpa là dentro, insieme alle poesie d'amore e ai discorsi di Hitler, perché immagino che l'abbiate notato, avevo mentito a Sara sul conto di mio padre. L'avevo mentito quando l'avevo incontrata all'archivio, altrimenti lei non mi avrebbe permesso di parlarle, e anche per abitudine, credo. Ma non mi sembrava una cosa giusta continuare a mentirle, visto che aveva accettato di uscire con me. Quel sabato andammo a teatro e poi io la invitai di nuovo a salire nel mio appartamento per dirglielo. Volevo dirglielo. Ma poi... Oddio! Oh, ti senti bene? Sì. Sì. Sì. Sì. Mi sento. Oddio, mi sento. Come? No, non voglio dire, non che siamo... No, ma mi sembra che vada tutto bene, giusto? Sì. Va bene. Sì. No, non che noi che siamo... ma in un certo senso mi sembra che vada bene. No, voglio dire che noi siamo io e te e che sono passati così pochi anni, ovviamente io ti trovo veramente, è che pensavo che ci sarebbe sembrato sbagliato, no? Ma che invece va tutto bene. È come se fosse così semplice per noi parlare di... e poi di questo atto di amore fosse possibile tra di voi. Oddio, scusami! Scusa! No, continua! Hai migliorato lo spettacolo! Mi è piaciuto! Non ho capito cosa intendi. Davvero? Sì, certo. È esattamente come hai detto tu. Ma tu come ti senti? Mi sento... bene. Già, stavo bene. Stavo proprio bene. Adesso vi spiego perché. Ero innamorato pazzo di Sara. Anche allora, quella prima notte, nel mio appartamento. Questa cosa vi piace. Israele, no, cantalo. Dovresti leggere il Kadish funebre. La morte non viene minimamente menzionata, si parla solo di Dio, non ha proprio senso. E dov'è? È lì. Canto. No. Canto, no. No, non lo canto. Perché no? Canto, voglio sentirlo. Non si canta, si recita. Hit Gadalvi, hit Gadash Shimei Rabbah. Amen. E la congregazione risponde Amen. Amen. Di alma di Brahirutei qualcosa. Malhutei de Hakekon, Uviomekon, Ukahei di Kol, de Hit Israel, Bagala, Uvitzman. No, no, continua. Ma lei non me lo ricordo. Ma non mi importa, guarda, c'è anche la trascrizione fonetica, dai. Hit Gadalvi, hit Gadash Shimei Rabbah. Bi alma di Brahi Rutei, bi amlik Malkutei behakekon, ubiomekon, ubkahedi kol behit Israel. Bagala uvitzman karif vimru. Amen. Ihei Shmei Rabbah, Nevrach Le'alam, Ulalmei Alma Yari Barah. Vishtabach, Vit Pahar, Vit Roman, Vit Nasei, Vit Adar, Vit Alem, Vit Alal Shmei Dikushah, Berihu. Le'alam Inkol Birkata, Vishirata, Tushbihata. Inermata la mena di alma di mezzo. Amen. Ihe shalam araba mi shamaya iahi male inubia col Israel vimru. Amen. O se shalom vimru mamuya se shalom Aleinu Baikor, Israel, Vimru. Amen. Amen. Con Sara sentivo che era una sensazione quasi religiosa, una specie di superstizione, credo, ma sentivo che c'era una possibilità di rimediare a quello che mio padre aveva... Non di rimediare, che sarebbe stupido pensare una cosa del genere, ma che se mio padre era stato su quella rampa, io in qualche modo con Sara, amando Sara, io stavo rimediando i suoi... Io la amavo e quindi in un certo senso era un atto di redenzione. O non lo so, qualcosa si stava compiendo. Con Sara io mi sentivo meno colpevole. Come se mio padre potesse essere morto per quello che... Qualche tempo dopo andammo a visitare il campo insieme. Noleggiammo una macchina, oltrepassammo il posto di controllo nel settore americano. I soldati americani scherzavano con Sara, volevano sapere perché sprecava tempo con un tedesco. I soldati sovietici non erano altrettanto amichevoli, ma riuscimmo a passare senza nessun problema e proseguimmo verso la DDR, la parte est, fino alla Polonia. Sara? Stai bene? Vuoi un po' d'acqua? Una birra? Sara? Sta! Sisko! È solche! Passando sull'autostrada! Tu percorri l'autostrada in direzione est e arrivi ad Auschwitz! Io non so perché sono andata sorpresa! In fondo l'avevo visto sulla mappa, però sono sorpresa lo stesso! E adesso sto pure vomitando! È umano, no? Io credo che sia una reazione umana! Certo! Guarda che mi hanno dico per il vomito! dignità. Ce l'ho ancora, sai, anche se sono qui con te, preferirei non vomitare di fronte a te. A me piace lo stesso. Vabbè, adesso dici così, ma non mi sposerai mai adesso che mi hai vista vomitare. Tu mi... Cosa? Sposeresti? Nel parcheggio di auto. No, non ritengo qui. E dove? In una sinagoga. No. Mi vuoi sposare? Ma no! Perché no? Perché sei tedesco! Ma solo per questo? Sì, forse, non lo so! Ma potresti chiedermi in un altro momento? Sto vomitando, dai! Tu sei tedesco del cazzo! E tra l'altro, penso pure di essere incinta! Sì, no, ma sarà stata la tua guida pessima! Ma sono... Dai, andiamo avanti, finiamo la vita! Percorremo il resto del campo insieme? Ma non proprio insieme. Sara camminò 5 metri davanti a me per la maggior parte del tempo. E mentre giro vagavo lì nel campo, ebbi una visione della mia famiglia. Non di mio padre e mia madre, ma di Sara e me con un bambino. E mi sembrò la cosa più... Mio padre con un nipotino ebreo. Alla fine, io e Sara ci ritrovammo sulla rampa a guardare i binari insieme. Il giorno dopo andammo a Cracovia e trovammo un dottore che parlava un po' di tedesco. Fece il test dell'urina a Sara. Poi restammo seduti nella sala d'attesa per 3 ore e mezza, fino a quando finalmente il dottore tornò da noi e ci disse: congratulazioni. Passai gran parte dei successivi 3 giorni e mezzo del viaggio di ritorno in macchina verso la Germania Ovest a cercare di convincere Sara a sposarmi. Io non fui particolarmente persuasivo, mi limitavo a ripetere in continuazione: sposami, ti prego! Sposami, ti prego! Una volta tornati a Berlino Ovest, nel mio appartamento, continuammo a discutere sull'argomento e per tutto il tempo, mentre discutevamo, c'era una lettera di Hermann poggiata sulla mia scrivania. Era riuscito a trovarmi in qualche modo. Attraverso il progetto Reinhardt, immagino. Quella lettera me la ricordo bene perché stava appoggiata sulla mia scrivania mentre io e Sara litigavamo e mentre lei mi spiegava per l'ennesima volta perché non voleva sposarmi, perché non voleva tenere il bambino, e io continuavo a pensare: devo far sparire quella lettera. Non possiamo avere un bambino così tanto per... Ma perché no? È così che succede. Arriva, punto, e basta. Non possiamo sposarci! Non possiamo avere un bambino così, punto, basta! Perché no? Quando andiamo negli hotel facciamo già finta di essere sposati. È la stessa cosa, Sara, solo che adesso facciamo finta. Non ti tiene neanche in un abito da sposa! Basta solo mettere 2 firme. Non so dove mettere una coperta oppure una tenda. Ma vuoi un vestito da sposa? Ma sì! Oh, bene, te lo trovo! Ma dove? Entro in un negozio e gli dico che mi sono sbattuto la mia fidanzata, adesso mi cerco di darmela. Me l'ha infilato un vestito da sposa, per favore. Ci sposiamo fra qualche settimana o mese e allora potrei indossare tutti gli abiti che vuoi. Se ci sposiamo tra qualche settimana, io sono venuta qui per l'estate, sono iscritta all'università a New York, i corsi iniziano a settembre, io sono... E ci sono venuta a fare qui, io non ci dovevo venire. Ma Sara... Me ne sarei potuta rimanere a New York. No, ma non l'hai fatto, se sei venuta qui. Volevi venirci, hai incontrato me. È la ragione più cretina che si possa immaginare per sposarsi. Io non voglio il bambino. No, non il bambino, non è questo. Cosa allora? Tutto questo. Ma cosa? Non cosa? Questo appartamento, hai tutta questa roba ebrea. Non è così che ti sceglie una moglie! Ma non è per questo che ti amo! Sì, è per questo! No! Io non volevo una ragazza ebrea qualsiasi! Se tutto quello che cercavo era una ragazza ebrea, come allora... Come vai a saperlo se non è mai... Come Sara? Sì, è così, non è mai incontrata un'altra! Vieni a New York, poi vediamo se mi ami o se soltanto... Ma... Volevo parlare di te! Che mi dici di te e i tedeschi? Ma è una collezione germanica! Tutta quella roba nazista, quella spilla orrenda, tutte quelle... È proprio questo che intendo. Siamo tutti e due. riguarda tutti e due. Non è amore, è qualcos'altro, è curiosità. È simile all'amore. Sara, io ti amo e non è per... Tu sei una bella donna, chiunque lo... Non è solo per... Ma sì, hai ragione tu. Se fossi stata una vecchia, tipo quella donna austriaca all'archivio con un rossetto spalmato su tutta la faccia, ti avrei amato solo perché sei... Hai ragione. A te piace che io sia ebrea? Sì. È vero. E ti amo. Mio padre non voleva che venissi qui, mi ha detto vai a Parigi, vai a Gerusalemme. Non spendi i nostri soldi in Germania, ma perché dovremmo aiutare i tedeschi? E adesso dovrete telefonarmi. Ma è per questo? No, non adesso. Cioè, non vuoi chiamare tuo padre? No, non adesso. Non è solo per questo. Adesso io mi siedo qua vicino a te e ti faccio io così. Non è così semplice, non lo posso chiamare così alla leggera. No, fermati! Una volta fatto... Senti, no. Mia madre mi ha fatto la stessa cosa. Lei l'ha lasciata e adesso io dovrei chiamarla e dirgli che sto per sposare un tedesco del cazzo. Io non gliela metterei così. Come dovrei mettertela allora? Tua madre lo ha lasciato? No, lei. Lei si è tagliata i polsi nella vasca da bagno del nostro appartamento a New York, quindi... Sì, se n'è andata. Lei era depressa. È stato lui a trovarla. Noi avevamo le mosche nella credenza della cucina. Un inverno siamo stati infestati dalle mosche. C'erano vermi in tutte le scatole di cibo, ma lei non ne svuotava una. Una volta mi ha dato da mangiare una tazza di cereali che stava nella credenza con dentro i vermi e io sarei così come mangio. Io diventerei pazza. Oh, Dio sa solo come saresti tu come padre. Tu, che ne so, tu lo deporteresti perché non è biondo. O che ne so, perché è storpio. Oppure te renderesti conto di odiarlo o cosa? Sara. Noi saremo orribili, saremo mostruosi. Quando eravamo in quell'hotel di merda, quello con la carta da parati anche sul soffitto, io mi stavo sdraiato e per questi stessi motivi non riuscivo a dormire. Allora mi sono messo a disegnarti, ho passato ore a disegnarti, ho tratteggiato le tue mani e mi fermavo in continuazione, avevo paura che il suono della matita potesse svegliarti. Non potremmo neanche sposarci in sinagoga, ci toccherà andare da qualche ufficiale di stato civile. Hai eredità molto lunghe, molto pallide, hai le unghie piccole e le vene dei polsi di un blu intenso. Tu mi ami. Il padre di Sara non fu molto contento. Non volle che tornassimo a casa sua a New York per il matrimonio, non voleva avere niente a che vedere con la questione. Alla fine venne a Berlino Ovest una settimana prima della cerimonia insieme a due zie di Sara. Una volta a Berlino Ovest trascorse la maggior parte del tempo nella sua stanza d'albergo, si rifiutava di uscire e di rivolgere la parola a Sara. Per lei era doloroso il fatto che tutti di loro si vergognassero di lei in quel modo, quindi durante il giorno veniva nel mio appartamento e li lasciava da soli in albergo. E ovviamente io ancora facevo fatica, non volevo turbarlo, quindi ancora non le avevo detto di mio padre. Dovevo mentire ancora per un po'. Visto che stavamo per sposarci e i preparativi erano in corso, avevo detto a Sara che i soldi erogati dal progetto Reinhardt me li dava l'assicurazione per l'incidente stradale di mio padre e che non avevo rapporti con la mia famiglia, che non ero in contatto con nessuno di loro, che vivevano tutti a Strasburgo, cose del genere. Avevamo optato per una cerimonia rapida alle 7 del mattino, quasi senza testimoni. A Sara questo non piaceva, voleva che ci fosse qualcuno a fianco dello sposo. E alla fine mancavano solo 2 giorni alla cerimonia. Il velo di Sara era appuntato sullo schienale di una poltrona nella sua stanza d'albergo per evitare che si sgualcisse quando Herman si presentò nel mio appartamento. Sei cresciuto. Eri un ragazzino, adesso sei Herman, sei qui in Germania. Hai conosciuto Sara, lui è Herman, è un mio vecchio compagno di scuola, un amico. Sara mi ha tenuto compagnia. Mi ha fatto entrare nel tuo appartamento, ci siamo bevuti il tuo whisky. Eh sì, sono stato un po' in giro per l'Europa, un po' così, senza meta, sempre con 2 soldi in tasca. E poi a un certo punto mi è venuta la nausea delle stazioni, così ho pensato di fare un salto a Berlino Ovest. E speravo di vederti. Sono passati quasi 6-7 anni dall'ultima volta che... Sara! Esatto. C'era da aspettarsi. Era riuscita a contenersi per un buon quarto d'ora, ma appena sei entrato... Poverina. Sembrato di capire che fosse convinta che tuo padre fosse morto, tra le altre cose. A quanto pare non sapeva niente del Paraguay. Mi sono fatto uscire un paio di cose, gli ho detto che era un vecchio amico del Paraguay e mi è sembrato che lei andasse in confusione. Sapevo che avevi cambiato nome, Otto Heinrich, giusto? Sì. Ma non sapevo che avevi anche fatto fuori tuo padre. A dire il vero, tuo padre sta benissimo, sempre là, da quelle parti. Molti hanno cambiato nazione, ma a tuo padre no, è sempre là. Il mio no. Dov'è? È morto in un incidente stradale. Si è preso la polmonite, poi si è rotto un'anca cadendo dal letto di ospedale e alla fine è entrato in coma. Voleva essere seppellito qui, in Germania. C'era scritto così sul suo testamento. Sotterrati gli resti a Berlino. Ho sparso le sue ceneri nella piscina di casa prima di partire. Sara. Non ci sono molte Sara a Berlino. Cioè, non ci sono molti... Sei passato agli ebrei, mi pare di capire. Tuo padre sarebbe... Ma immagino che lui non lo sappia. Mi è sembrata molto carina. Ti farei le congratulazioni, ma... Beh, se ti perdona, noleggio un abito da cerimonia. Mi piace la Germania, capisco perché ti piace qui. È giusto stare qui ad aspettare che l'odio si placi. Qui, in mezzo a tutte queste altre vestigia di guerra. Mi ha avuto nostalgia del Paraguay. No, non sei felice di vedermi? Sì, anche io stavo così, quando te ne sei andato. Andai all'albergo di Sara, lei era lì nella sua stanza da sola, stava facendo le valigie. Non vi ho ancora detto come mi chiamo, vero? Non vi ho detto il mio nome. A dire il vero preferirei non farlo, ma lasciate che mi presenti. Tuo padre si chiama Rudolf Klausner e questo è il tuo nome. Sì. Rudolf. Rudy. Me ne vado, vado con mio padre, ritorno a New York. E il bambino? Il bambino! Fare per dirti di sederti, Sara. Ascoltami, io ti amo. Non mi ami! Il bambino, siediti, ti prego! Lui sta in Paraguay, da qualche parte. E tu sai dove? Tu sai dov'è? Me ne vado perché come un padre. Se me ne vado adesso, posso andare a New York, conosco un dottore che può sistemare tutto. Non sono neanche alla decima settimana. Ma è una... Sara, ti prego! Tu non me l'hai detto, tu mi hai mentito! No, io... Sì, mi hai mentito! No, no, è solo che non te l'ho detto! Perché, Sara, ascoltami, quando ero piccolo in Paraguay, Sara, mio padre non mi ha mai detto niente, non mi raccontò niente dei campi! Così quando ti ho incontrata, a me è venuto spontaneo dirti semplicemente quello che mi aveva detto lui! Stai dicendo le stesse bugie che tuo padre ha detto a te! Ma perché mi stai facendo questo? Perché? Ma non lo sto facendo, non lo sto facendo! Non è così! No, mi hai detto che era morto! Ma sono costretto a dire che è in Paraguay! È un criminale di guerra! Ma io che cosa devo fare? Gli vuoi bene. È così tu. No. Tu sei. Abbiamo parlato di Eichmann, io e te. Abbiamo parlato del processo. Sara. Mentre lui è in Paraguay. Sì. Chiamala. Se chiamassi... Se lo consegnassi alla polizia, come Eichmann? Che ne dici? Se lo consegno alla polizia. Ce lo faccio tu. Non lo so. Cosa dovrei fare? Perché dovrei? Sara. Se lo denunci, allora. Quando lo processeranno? Quando sarà processato? A Gerusalemme. E il bambino tu lo... Aspetta un attimo, io lo... Sara, io lo... Ti prego, ti chiamerò a New York, ti racconterò quello che succede, però aspetta. Aspetta almeno una settimana, no? Sara. Sara. Io non so cosa. Rudy. Beh, a questo punto è tutto chiaro, giusto? Telefonai al Mossad in Israele, parlai con una serie di burocrati dell'estradizione, gli dissi quello che sapevo, la casa, l'indirizzo. Ma a quanto pare l'estradizione è un processo lungo. Non sarei potuto tornare da Sara forse per anni. Quindi non mi resta che... Lui è un criminale di guerra. Non ci sono grandi ragioni che mi impediscano, tranne le mie personali, perché lui è mio padre e quindi ho degli... Mi spiace doverlo dire, ma ho degli... L'hanno trovata alla dogana, il funzionario, quello con i cerotti sulle dita. Io gli ho dato dei soldi, funziona così in Paraguay. Dove sarà mia madre? Di sopra? Fuori? Adesso non mi resta che entrare e farlo. Se sigarette non valgono niente, non esiste nessun'altra soluzione a questo problema, a parte questa è l'unica soluzione, giusto? E poi tornerò alla mia famiglia. È spiacevole, ma voi pensate che dovrei farlo? Pensate che dovrei farlo? Lo spettacolo A Est di Berlino di Anna Moscovic, traduzione Valentina Rapetti, messa in scena di Marco Taddei, con Beppe Casales, Irene Lamponi, Vito Saccinto. spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con l'attrice Alice Valente Visco per presentare lo spettacolo L'ultima rosa, un monologo per Tina Modotti. A Roma, allo spazio Sferocromia, sabato 29 marzo 2025. Ben trovata. Grazie per avermi chiamata. Cos'è questo lavoro? Qua. Questo lavoro è un incontro con una donna, è la rievocazione del suo spirito, per quanto si possa riuscire a rievocare uno spirito così umile e grandioso allo stesso tempo. È un lavoro molto difficile, è un lavoro coraggioso, è un lavoro di cui sento la necessità. Mi sono innamorata di Tina Modotti durante l'adolescenza, ho pensato a lei molto e come attrice avrei voluto fare un lavoro su di lei da molto tempo. Poi si è creata l'occasione 7 anni fa, quando mi trovavo nel Molise, a Campobasso, e avevo conosciuto una scrittrice tedesca che aveva scritto una biografia su di lei, una donna, anche questa scrittrice molto interessante, si chiama Christiane Barkhausen, e che 8 anni fa ha spostato da Berlino, dove lei viveva, tutto l'archivio enorme di materiali su Tina Modotti che lei aveva raccolto durante tutta la sua vita. Adesso ha più di 80 anni, Christiane, poi naturalmente siamo diventate amiche, e ha trasferito tutto in un piccolo paesino del Molise, a Bonefro. Quindi esiste questa associazione fondata da lei e da altre persone locali che si chiama Creatina, esiste l'archivio, esiste un festival che ogni anno da 7 anni viene rinnovato, si svolge all'inizio di luglio, e insomma ho cominciato a far parte di questa famiglia di innamorati di Tina Modotti. A Campobasso ho fatto per la prima volta il mio spettacolo e ha delle caratteristiche a cui tengo molto. Non l'ho ancora fatto mai in teatro, perché è uno spettacolo che richiede lo spostamento degli spettatori e dell'attrice in diverse parti dell'ambiente. Ho cercato, insomma, con questo monologo, che tra l'altro recito sulla base di un canovaccio, come nella tecnica della commedia dell'arte, proprio per mantenere un margine di rischio creativo, intendo, ogni volta. E è itinerante, perché appunto queste due caratteristiche in qualche modo per me esprimono quello spirito volto a ricreare la vita che aveva Tina Modotti continuamente. Tina Modotti che è stata una migrante per eccellenza. Tina Modotti è nata a Udine, lo ricordo, nel 1896, da una famiglia molto povera, erano in 7 bambini, padre socialista, è cresciuta, è stata educata ai valori del socialismo, dell'internazionalismo, e si è trovata a fare l'operaia da bambina. Da adolescente è emigrata per raggiungere il padre in America, a San Francisco, e ha continuato a fare l'operaia anche là. Però cosa mi interessa proprio tantissimo riportare di questa donna, che a mio avviso tocca gli animi anche oggi moltissimo, la sua vita, la sua esperienza, il suo modo di cavalcare gli eventi. Che cosa mi interessa? Riportare il fuoco che è sempre stato così acceso in lei e l'ha portata a superare i suoi limiti, i limiti da cui partiva, la povertà, la vita operaia, e che l'ha portata ad allargare gli orizzonti e ad abbracciare l'arte a un certo punto, che per lei però non poteva essere disgiunta da una coscienza accesa davanti ai fatti della vita. Ha avuto un suo periodo importante da artista, anche come attrice nei primi film muti dell'epoca, e poi come fotografa artista. Però a un certo punto in lei l'urgenza di denunciare le discriminazioni sociali, le ingiustizie, era più forte, e la fotografia doveva servire a questo per lei, era uno strumento. Quindi, a differenza di altre donne eccezionali anche che ci sono state, che lei ha anche incontrato all'epoca, come ad esempio Gerda Taro, ne ricordo una per tutte, per lei la fotografia doveva esistere come arte nella sua vita affinché fosse stata davvero utile. Infatti nella sua vita, altro tema molto importante legato a Tina Modotti, è questo conflitto tra arte e vita, che l'ha accompagnata fino alla fine, e davanti agli orrori sempre più grandi e davanti in particolare agli eventi della guerra civile di Spagna, lei decide di abbandonare la sua macchina fotografica proprio perché si arrende in qualche modo per quanto riguarda la possibilità di raccontare attraverso l'arte quello che stava avvenendo. È una donna che si dà quindi totalmente, è uno di quegli esempi di personalità che si danno totalmente, che credono in una causa fino a superare appunto tutti i limiti. Altro elemento fondamentale è il suo essersi legata al Messico, il paese che lei ha avuto nel cuore poi per tutta la vita, e alla rivoluzione culturale che c'è stata dopo la rivoluzione per la terra dei contadini, dei peones, delle soldaderas anche, che ha portato all'elaborazione della una delle costituzioni più avanzate, la più avanzata all'epoca per quanto riguarda i diritti dei contadini, e faceva parte un po' di quel movimento di Frida Kahlo, Diego Rivera, è stata musa di Diego Rivera ad esempio, e era amica dei muralisti che parlavano della condivisione dell'arte per tutti. Mi preme anche dire che questo spettacolo appunto lo metto in scena ogni volta in luoghi diversi e si trasforma nel tempo a seconda anche del luogo che incontro. Questa volta è invece in collaborazione con un artista che si chiama Manuela Scannavini, con cui siamo diventate insomma amiche e collaboratrici. Con lei si creano dei percorsi di intensa riflessione, quasi di immedesimazione. Lavora con delle grandi tele e diversi materiali, io come performer con lei in genere, e abbiamo portato avanti diversi temi, dalla maternità alla condizione delle migranti nella storia, e questa energia molto femminile, molto di necessità di raccontare, anche a volte di denunciare delle condizioni, ci ha portato a fare dei lavori molto intensi. E in occasione del 29 Manuela presenterà una sua opera appunto dedicata a Tina Modotti, che entrerà a far parte dello spettacolo. Lo spettacolo L'ultima rosa, un monologo per Tina Modotti, in scena a Roma, allo Spazio Sfero Cromia, sabato 29 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Alice Valente Visco. Alla grazie prossima. A voi, grazie a voi moltissimo. Ciao. Con il fotografo Tano D'Amico per presentare il suo libro I nostri anni a Roma alla libreria Caffè Lo Ieti domenica 30 marzo 2025. Ben trovato. Ciao. Come nasce questo lavoro? Nasce perché quando io incontro delle persone che hanno fatto le mie stesse esperienze, vedo che ricordano con maniacalità tutto, tranne il motivo che ci spingeva tutti quanti in strada e proprio i sentimenti che ci facevano essere come degli strumenti che fanno musica e che entrano in risonanza tutti quanti. E quello è, secondo me, quello che è stato smarrito e che è stato fatto dimenticare anche con la forza, con secoli e secoli di carcere, con le torture come abbiamo visto, e anche con l'infelicità che portavano a cercare consolazione in pillole, punture, sostanze che hanno portato moltissimi a morte. Nel tuo libro parli della memoria, del fatto che ti sei condannato al ricordo. Sì, questo è strano, forse c'è un legame che lega immagini e memoria, e forse anche quando uno fa immagini, nel tempo stesso in cui davanti ai suoi occhi si compongono le immagini, si compone anche la memoria. Poi è il fotografo che è condannato a non dimenticare. Questo può sembrare strano, a me sembrava strano perché pensavo che fossero più pronti alla memoria i protagonisti, quelli che proprio erano i fattori di avvenimenti, di storia. E poi ho visto come questi piano piano abbandonassero la memoria, perché la memoria è scomoda, non permette di inserirsi nella vita con normalità. Ecco, cioè io penso che la memoria tante volte non trovi i ritmi della vita, ha degli altri ritmi incompatibili con i ritmi della normalità. Lo stile del libro è a flusso di pensiero, legato ad emozioni, sì, e a ricordi, con brevi capoversi che si susseguono senza soluzione di continuità. Mi piace molto. Ti ringrazio, molto, moltissimo. Come viene fuori questa attitudine? Io per un periodo non ho preso mai appunti, perché era pericoloso prendere appunti, perché poteva dire portare delle conseguenze per se stessi e soprattutto per i miei amici, per i compagni. Anche noi andavamo spesso a dare una mano, a tentare di dare una mano ai nostri compagni che erano preda di dittature, e quindi dovevamo stare molto attenti a non scrivere niente e a non dire niente. Dici delle cose molto belle anche sui movimenti e sull'amore. Voglio leggere e ragionarci insieme. Nei movimenti, sì, si sta insieme per amore, si possono avere le stesse istanze, sempre in modo diverso, a distanza di generazioni, di millenni. Si scende in strada tutti insieme, legati da un amore che può chiedere la vita, legati da un amore assoluto, più forte dell'amore per la vita. La vita ha bisogno di quell'amore per essere vissuta. Sì, è un pensiero che può sembrare triste, perché ricorda anche quelli che per costruire quella consapevolezza sono anche morti, e sono tanti, e rimangono vivi e producono un sentimento di grande pena, un sentimento di grande pena, però è un sentimento di grande pena che non si vuole mai, almeno io non lo voglio mai, mai, mai, mai perdere, per non trovarmi smarrito. Tano, l'appuntamento di domenica sarà più un modo per incontrarsi che una presentazione. Sì, sì, sì, un modo per incontrarci. E anche lì, quando io vedo delle persone anziane come me, vecchi come me, allora ho paura che a un tratto di accorgermi che me li sono inventati, perché sono stati rapporti così belli con loro, così vitali, che ho paura che scappino via. E allora scopro che gli tengo le mani, parlo con loro ma tenendogli le mani strette, per paura che scompaiano. Il libro I nostri anni, una presentazione a Roma, alla libreria Caffè Lo Ieti, domenica 30 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento al fotografo Tano D'Amico. Ci vediamo lì. Un abbraccio, certo, grazie, un abbraccio strettissimo. Ciao, ciao. Con Elisa Lello, curatrice del libro L'industria del complottismo, social network, menzogne di Stato e distruzione del vivente, di Mathieu Amiech, ben trovata. Grazie, ben trovato e buongiorno a tutte e a tutti. Ci presenti questo lavoro? L'industria del complottismo di Mathieu Amiech è un volume, credo, prezioso, perché rappresenta una necessaria, direi, problematizzazione di questo fenomeno di cui parliamo tutti, il complottismo, dando un po' per scontato che possa essere chiaro ed evidente che cosa sia che complottismo e che cosa non lo sia, o che cosa differenzi una normale critica sociale da una teoria del complotto, quando appunto a un esame un po' più attento è chiaro che non è così. Quindi ecco, Mathieu Amiech da una parte mette in luce anche i pericoli dell'anticomplottismo, no? Quindi i pericoli anche insiti nel, quando etichettiamo, no, una teoria critica, soprattutto una teoria critica poi più pungenti, anche più scomode nei confronti del potere, come complottismo, finendo in qualche modo per psichiatrizzare la critica sociale e in questo modo anche per difendere l'esistente, però al tempo stesso becca un po' una terza via in qualche modo, no? Perché se proprio critica l'anticomplottismo, non risparmia però anche critiche al complottismo stesso, inteso come un certo modo di veicolare la critica sociale che rischia di sviare, di incanalare anche critiche potenzialmente emancipative, importanti, portate avanti anche da, appunto, delle classi subalterne, in direzioni tali da fargli mancare il bersaglio, in direzione alla fine anche scomoda del potere. E invece il valore aggiunto di questo testo è proprio quello di evidenziare come ciò che ha portato oggi a questa direzione, in qualche modo, della critica, quello che crea il complottismo, è strettamente legato alla digitalizzazione come processo industriale e alla stessa storia del capitalismo. Quindi, ecco, inserire questo discorso all'interno di una struttura e anche con gli strumenti teorici più adeguati ci aiuta a elaborare una critica sociale più fondata e maggiormente capace di orientarsi verso gli obiettivi adeguati. Ecco. Cosa sappiamo dell'autore? La mia estra, che è francese, è il curatore delle edizioni La Lanteur, è un pensatore critico dello sviluppo tecnologico e industriale che ha animato e partecipato a diversi gruppi di indagine, resistenza e intervento sociale, tra i quali il gruppo Marcuse, il gruppo Oblomov, che denunciava la complicità della ricerca scientifica con il capitalismo industriale, ed Ecran Total, che è una rete di collegamento per il rifiuto della digitalizzazione di ogni ambito della quotidianità, e altri gruppi. E ha scritto diverse pubblicazioni, diversi libri, e i più recenti, per esempio, sono dedicati alla digitalizzazione, appunto, della vita e anche alla crisi sanitaria. Come sei entrata in contatto con questo volume? Sono entrata in contatto attraverso le edizioni Malamente, che sono una casa editrice nata a Urbino a partire dall'esperienza della rivista Malamente, che è una rivista di ispirazione anarchica che tratta sia di tematiche legate al territorio ma anche di temi più ampi, e poi diventata appunto da alcuni anni anche casa editrice. E la proposta è arrivata dal traduttore del volume, che è Luigi Balsamini, che è uno appunto dei pilastri delle edizioni Malamente, e soprattutto perché appunto il testo di Mathieu incrocia temi di cui mi sono occupata parecchio negli ultimi anni, perché io mi occupo proprio di rapporto tra scienza, sapere esperto e proteste, movimenti sociali, sia in campo sanitario, quindi vaccini, gestione pandemica e così via, e sia in riferimento invece a conflitti ambientali, per esempio a temi ambientali. E quindi, insomma, partendo da qui, negli ultimi anni mi sono occupata molto più in generale del rapporto tra scienza e politica, no? Quindi come la scienza può essere utilizzata dai movimenti sociali e anche dalla politica nell'elaborazione proprio delle politiche, ma anche quali sono gli aspetti invece critici, problematici che discendono quando pretendiamo di mettere la scienza al centro della politica, cioè quando pretendiamo che controversie complesse che includono aspetti etici, politici, sociali, economici, eccetera, possano essere invece trattate e risolte in qualche modo attraverso la scienza, che vorremmo in qualche modo sostituire alla politica perché pensiamo che possa essere in grado di dare risposte più efficaci, più oggettive. E quindi il tema del complottismo è un tema che sta all'interno di un fenomeno molto più ampio, no? Che è appunto questo della crescente importanza della scienza proprio all'interno dei processi politici, e quindi anche un po' della tendenza a etichettare, a delegittimare anche diverse forme di dissenso come semplicemente espressioni di ignoranza, di antiscienza, di complottismo, e quindi c'è tutto un po' un dibattito accademico che però è collegato anche a quello giornalistico sul cosiddetto populismo antiscientifico, sul populismo epistemologico. Cioè, e quindi ecco, io ho accolto molto volentieri questo invito di occuparmi di questo libro e cercare di mettere un po' in relazione, in dialogo, il testo di Mathieu Amiec con le ricerche di cui mi sono occupata sia a livello teorico ma anche proprio a livello empirico di ricerca sul campo negli ultimi anni. Ci spieghi un po' il titolo e il sottotitolo del volume? L'industria del complottismo, io l'ho letta un po' come quasi un gioco di parole, nel senso che da una parte Mathieu investiga il complottismo proprio nel senso di ciò che lo produce, e quindi appunto l'industria del complottismo nel senso proprio di tutti i fattori che contribuiscono a costruire e a creare il complottismo. E dal suo punto di vista, appunto nella sua ricostruzione, sicuramente la digitalizzazione ha un ruolo molto importante, ma dall'altra parte anche le menzogne dello Stato e anche la strumentalizzazione della scienza, no? E qui si appoggia tra l'altro a un altro libro molto bello, sempre di alcuni autori francesi, Les Gardiens de la Raison, I Guardiani della Ragione, che è proprio un libro che tratta in maniera molto documentata su come la scienza possa essere strumentalizzata ad opera di interessi politici e sociali, fornendo anche diversi esempi di come questo viene fatto, così da rendere non più contestabili alcuni interessi che poi sono spesso quelli del peggiore capitalismo, più inquinante, più estrattivista, pericoloso anche per la salute e per l'ambiente, che però vengono in qualche modo resi non più contestabili proprio perché presentati come se fossero diretta emanazione della scienza, no? E questo però significa anche poi delegittimare il dissenso possibile come appunto espressione di antiscienza, di ignoranza, eccetera, eccetera. Il libro L'industria del complottismo, social network, menzogne di Stato e distruzione del vivente di Mathieu Amiec. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice del libro, Elisa Lello. Alla prossima! Grazie, grazie a voi. Buona giornata. Inizia la settimana e inizia anche la nostra attenzione al teatro che si farà in quella settimana, ed ecco qui il nostro ritorno al Teatro Tor Bella Monaca, laddove nel weekend 28, 29 e 30 di marzo Alessandro Benvenuti, che è anche autore e anche regista insieme a Roberto Abbiati, autore della scenografia, porterà questo lieto fine, e noi cominciamo appunto dalla fine per questo nostro inizio al Teatro Tor Bella Monaca, 28, 29 e 30 di marzo, quindi da venerdì a domenica, per questa storia che racconta di una bicicletta multifunzionale che attende tutti i giorni il proprio pedalatore dentro un box poco attendibile, arredato con scarno ed essenziali memorie. E colui che insomma la mette in funzione pedalando, un uomo che attraverso gli auricolari del suo cellulare è costantemente in contatto con decine di voci di persone care, amici, importuni e suoni vari, e questo insomma è un po' la sua particolarità. Quindi siamo all'interno del cervello di un autore comico che cerca di raccontare come legare insieme una serie di circuiti mentali causati dalla responsabilità di dover scrivere un testo. Questo è quello che avviene in questo lieto fine, 28-30 marzo, Teatro Tor Bella Monaca. E noi andiamo allo Spazio Diamante invece, perché ci sono ben 4 spettacoli questa settimana, e vado con ordine. Dunque, si comincia questa sera con uno spettacolo in data secca, con la regia di un'amica, la nostra amica Tiziana Scrocca, ispirato al romanzo Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, appunto Don Chisciotte, con vari attori, e si tratta di un gruppo di tecnici, sarte, signore delle pulizie, che sistemano un teatro che è stato appena chiuso. Tra gli oggetti di scena trovano strane armature, buffi cappelli e un libro, Don Chisciotte di Cervantes. Lo spettacolo è l'ultimo che era stato rappresentato, ha appena terminato le sue repliche, ma quella sera stessa per gioco questi tecnici decidono di fare gli attori. Quindi questa sera andremo a vedere i non attori, che in realtà sono attori, e faranno questo Don Chisciotte di Cervantes di Tiziana Scrocca allo Spazio Diamante. Andiamo nella Sala White, sempre, ma dal 27 al 30 di marzo, con questo ritorno della compagnia Teatro di Lina, Francesco Colella, Giovanni Ludeno, con Le vacanze dei signori Lagonia. La regia è di Francesco Lagi. Dunque, si tratta di un lavoro in cui ci sono due anziani signori, marito e moglie, i signori Lagonia, che sono su una spiaggia, guardano le onde che si arrotolano nel mare mentre si srotolano i loro pensieri. Nessuno dei due, però, è nato per dare voce ai sentimenti in modo intonato. La loro è una comunicazione di intimità silenziose, di risate improvvise, furie e riconciliazioni. E però va avanti da un bel po' di tempo, direi. Quindi Francesco Lagi ci porta nelle vacanze dei signori Lagonia dal 27 al 30 marzo, Spazio Diamante. Stesso spazio, Sala Black, in questo caso 28-29 marzo, per un lavoro di Roberta Lidia De Stefano, con insieme anche Massimo Betti, che sarà alle musiche, Dream a Little Dream, sogno diversamente blues, un diario blues, un sogno in forma di concerto, quindi insomma un teatro con molta musica, una seduta spiritica che porta all'interno delle antenate della protagonista, rivelando poi l'universo interiore delle grandi cantanti blues. Quindi 28-29 marzo per questo lavoro di Roberta Lidia De Stefano allo Spazio Diamante. Ancora, ultimo lavoro allo Spazio Diamante, giuro, poi abbiamo chiuso. Filippo Macchiusi ci porta il 31 marzo, quindi giorno in cui ancora dobbiamo sentirci, è il primo aprile, che è appunto di martedì, in questo M informato dei fatti. M si presenta davanti a un annoiato maresciallo per mettere agli atti la sua paradossale deposizione, appunto un monologo comico che lo porta a smarrirsi nei frammenti che va a rievocare per andare a conversare direttamente con i protagonisti della sua storia e viverla di nuovo. Questo è quello che accadrà nello Spazio Diamante 31 marzo e 1 aprile con M informato dei fatti di Filippo Macchiusi. Teatro Argostudio, dove il 28 marzo in data singola Tiziano Panici e Giulia Anania porteranno questo viaggio tra le storie e le strade di una città senza più un nome e presentano quindi Senza fissa dimora, accompagnano il pubblico con poesia, voce, canzoni, immagini nelle strade e i vicoli di una città che appunto non ha più la sua identità, riscoprendo, cercando di riscoprirne i luoghi dimenticati, abbandonati, amati e traditi. Quindi Teatro Argo, 28 marzo per questo viaggio nella città dimenticata. Teatro Biblioteca Quarticciolo, 29 e 30 marzo, per questo Blush di Marcello Cotugno, che ne cura appunto la regia, in scena Arianna Cremona e Claudio Righini. Questo spettacolo che ha avuto molto successo al Fringe Festival di Edimburgo, replicato poi in un teatro di Londra, in una drammaturgia e portato nell'ambito della rassegna trend di drammaturgia straniera, appunto Marcello Cotugno ci porta in questo testo di Charlie Josephine, che appunto si chiama Blush, e mette in mostra le leggi non scritte che riguardano la responsabilità di genere, come la vergogna che proviamo quando non ci sentiamo all'altezza possa diventare violenza. Sono 5 storie sul revenge porn, quindi è un lavoro secondo me molto interessante da vedere, che ci permetterebbe di parlare molto di sacco di cose che accadono in questa nostra società contemporanea. Quindi 29-30 di marzo al Teatro Biblioteca Quarticciolo, all'altrove Teatro Studio, sabato 29 marzo, Occhi chiusi in mare aperto, live, un gruppo di 5 voci che portano insomma a questo concerto teatrale in data secca, sabato 29 all'altrove Teatro Studio. Poi andiamo anche alla Fortezza Est, dove Francesco Petruzzelli scrive questo Chip, di cui fa regia Alessandro Marmorini, in scena Carlotta Mangione e Michele Lisi, 27, 28, 29 di marzo, per questo spettacolo che esplora il concetto di coscienza in un mondo sempre più dominato dall'intelligenza artificiale. E quindi insomma sono due protagonisti, Alex e Yu, che sono come noi, cresciuti con una fantascienza che sta diventando realtà troppo presto, fatta di robot, cyborg, androidi, e questa narrazione ci fa presagire che esseri umani presto non sarà più abbastanza, quindi termini come transumano, postumano stanno via via prendendo piede. 27, 28, 29 marzo per Chip allo spazio della Fortezza Est, teatro lo spazio. 29 e 30 marzo c'è questo testo di Davis Tagliaferro che si chiama Il Gioco, con la regia di Fabio Di Gesto. Si tratta di una coppia di coniugi uniti in matrimonio da poco più di 20 anni, Paul e Norman. Sono annoiati dal solito rapporto moglie-marito già da diversi anni, preda di un gioco che li tiene avvinghiati in una morsa senza via di uscita. È un gioco inizialmente, ma poi non lo è più, cambiare identità. E questo è quello che poi li porta all'idea, insomma, che cambiare identità sia anche cambiare barriere, distruggere vincoli, e succede un po' come succede, insomma, al nostro fu Mattia Pascal pirandelliano, che poi, insomma, rinunciare alla propria identità significa rinunciare a molto più che a questo, forse alla propria vita, chissà. Allo spazio 18B andiamo a vedere anche questo One Man Hamlet di con Jacopo Cavallaro, un viaggio all'interno dell'Amleto shakespeariano, cui si ispira liberamente. C'è un attore, sono in scena come un equilibrista, si muove sul filo tra la vita e la morte, va nei labirinti dell'essere dove la mente perde la ragione, sconfina nella pazzia. È quello che succede insomma all'Amleto shakespeariano. Vediamo insomma questo One Man Hamlet come ce lo restituirà. Andiamo al Teatro Belli, perché per la rassegna Expo Teatro Italiano Contemporaneo debutta Bianco, questo spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Tantillo, in scena insieme a Valentina Carli, e sarà in scena appunto dal 25 al 30 di marzo, il progetto della compagnia di Tantillo, ovvero Best Friend Teatro, ed è una commedia che non ha come fine unico il puro intrattenimento, ma cerca di trovare un senso alla nostra presenza su questo pianeta, e il tema è quello del tempo, di come la malattia modifichi la percezione dello stesso, e lo fa questo con un tono leggero. Mia e Lucio si conoscono in un pomeriggio nel reparto di oncologia dell'ospedale locale. Hanno 37 e 40 anni, se non fosse che sono terrorizzati dall'idea di morire, potrebbe essere un incontro qualunque. Che ci fanno lì? Qual è il rapporto che si viene a creare? Insomma, qual è la loro idea di futuro pensata in un luogo che, insomma, di futuro ne ha forse non così tanto? Dal 25 al 30 marzo lo andiamo a vedere al Teatro Belli. Allora, Teatro Vascello, il ritorno sulla scena di un'attrice incredibile anche soltanto per l'età che porta in scena, Francesca Benedetti, anni 90, e non anni 90 come epoca, ma proprio perché ha 90 anni, e porterà come saluto al suo pubblico dopo anni e anni di carriera, il 25 e il 26 marzo, oggi e domani, questa regia di Marco Carniti dal testo di Giovanni Testori, Erodiade. Questo, insomma, è lo spettacolo che andremo a vedere al Teatro Vascello per questi due giorni. Sono due serate evento a tutti gli effetti, insomma. Non è la prima volta che, insomma, Francesca Benedetti si occupa di testi di Giovanni Testori, ed è un'icona del nostro teatro che, seduta su un trono rosso sangue, affronta la scrittura di Testori facendosi carne e sangue di questo personaggio trasgressivo come appunto Erodiade, che oggi è vittima e domani può proprio essere carnefice. Insomma, un personaggio molto particolare. Il mito di Erodiade è metà donna, metà dio, scopre quindi il lato ambiguo e fluido della virilità. Quindi 25 e 26 marzo per Francesca Benedetti con Erodiade al Teatro Vascello, stesso teatro dove debutterà appena dopo, cioè il 28 marzo, andrà avanti fino al 6 aprile, questo testo di Georges Feydeau, adattato e diretto da Carmelo Rifici e Tindaro Granata, La pulce nell'orecchio. Si tratta di un lavoro che arriva a Roma con molti attori, vado a ricordare, insomma, qualche nome, ma sono davvero molti, lo stesso Tindaro Granata, Cristian La Rosa, Marta Malvestiti, insomma, ce ne sono molti, impossibile citarli tutti. Si tratta di una commedia esilarante, insomma, vaudeville, quello di Feydeau, che mantiene l'impianto originale del testo, ma sottolinea appunto questo spirito giocoso, selvatico della scrittura, cercando, insomma, di liberare i personaggi dal contesto borghese e valorizzando i ruoli femminili. C'è al centro della vicenda una moglie, Raimonda, che, allarmata dal comportamento freddo e distratto del marito, sospetta che gli abbia un amante. Questo dubbio, appunto, la pulce nell'orecchio, le nasce dopo il ritrovamento di un paio di bretelle presso l'hotel Feydeau, appunto un albergo equivoco nei pressi di Parigi, e per mettere alla prova l'infedeltà del marito gli spedisce una lettera d'amore tramite un'amica, e qui comincerà una vicenda molto molto interessante. Quindi al Teatro Vascello, La pulce nell'orecchio, Carmelo Rifici da Georges Feydeau. Per i più piccoli, ma manco troppo in realtà, perché dagli 11 anni in poi, 29 e 30 marzo, al Teatro Torloni, al Teatro per le Nuove Generazioni, porterà questo Sboom, Yes We Cake, con la regia di Marta Dallavia e insieme al fratello Diego Dallavia, coppia affiatata ormai sul palco, ci portano questa storia in cui uno vale uno, la festa è di tutti. Se c'è una torta, ognuno deve avere la sua fetta. Se siamo troppi e la torta non basta, che succede? Basta fare una torta più grande. Ma come fare una torta più grande se la torta è già grande come tutta la terra? Questo è interessante. Insomma, lo spettacolo che ha a che vedere con il turbocapitalismo, con che cosa significa lo stato sociale, il sistema di welfare all'interno della nostra epoca contemporanea, individualista fino all'ennesima potenza. Molto interessante. Quindi sabato 29 e domenica 30 al Teatro Torlonia. Invece al Teatro Elsa Morante a Ostia, il laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli ha già debuttato, va avanti fino al 29 marzo con Lo scrittoio di Pirandello, con la regia di Roberto Gandini, insieme a Gandini e Roberto Scarpetti alla drammaturgia. In scena vari attori, Francesca Strei, Antonietta Bello, Roberto Baldassarri, per questo lavoro che appunto ci porta nell'esplorazione di alcune opere di Pirandello, improvvisando sulle storie che più divertivano e coinvolgevano tutti, visitando appunto il vero studio dello scrittore Pirandello in via Antonio Bosio a Roma. Quindi, insomma, un viaggio all'interno della scrittura pirandelliana fino al 29 marzo al Teatro Elsa Morante di Ostia. Carrozzerie Not, Something Stupid, Daniele Natali, Fausto Paravidino presentano questo lavoro 28, 29 e 30 marzo alle Carrozzerie Not, un esperimento non formalizzato, insomma, non uno spettacolo, ecco, ci viene detto una cosa di Daniele Natali e Fausto Paravidino, una cosa non provata e non scritta, un tentativo di acchiappare la vita e ficcarla nel teatro. La vita la cerchiamo in questo caso nel presente, nell'improvvisazione, nel pubblico, nella situazione, a volte persino in quella cosa vecchia che è l'attualità. Questo è molto interessante, è un processo divertente quello di Natali e Paravidino che lo portano sulla scena delle Carrozzerie Not 28, 29 e 30 di marzo. Ricordando anche che fino a domenica 30 va in scena I sei personaggi in cerca d'autore all'Argentina con la regia di Valerio Binasco, l'ho visto, vale davvero la pena. E mentre invece al Teatro Basilica arriva la compagnia Barletti Vasso, ovvero sia Lea Barletti, Werner Vasso, con un doppio appuntamento dal 27 al 30 di marzo. Sono entrambi testi scritti da Lea Barletti, diretti dalla stessa insieme a Werner Vasso, e che sono anche in scena, un duo italo-berlinese con questo dittico monologo della buona madre e Ashes to Ashes, che avevamo già visto in altri contesti, ricordo forse al Teatro Torlonia sicuramente. Si tratta di due spettacoli. Il primo, monologo della buona madre, e vede questa buona madre iniziare il suo discorso dichiarando la propria intenzione di andarsene di lì, ma se ne andrà poi davvero? C'è vita come persona, come donna, come attrice al di fuori dello sguardo altrui, dello sguardo degli altri? E chissà che insomma in fondo il ruolo dell'attrice non sia poi simile a quello della madre, no? Che vive in fondo, almeno secondo l'idea che passa contrastata da questo spettacolo, soltanto negli occhi di chi la guarda in quanto tale, di cui la guarda come buona madre. Quindi molto interessante questo processo. Mentre invece Ashes to Ashes ci racconta di come pensa una coscienza in fiamme, come trovare le parole per un disastro che inizia da dentro. Ogni paesaggio è perduto e a cosa si aggrappa dunque la memoria e la lingua per costruire la certezza di sé e collocarsi in un qualche discorso? Ecco, questa è una domanda, una serie di domande che compongono questo spettacolo. Lo andremo a vedere insieme a Barletti Vass, 27 al 30 marzo al Teatro Basilica. E in ultimo andiamo al Teatro India, laddove dal 25 al 30 marzo Luca Marinelli cura la regia di questo Una relazione per un'accademia con Fabian Jung, è tratto dall'omonimo racconto noto, famosissimo, di Franz Kafka. Si tratta di uno spettacolo, un racconto che attiene ai condizionamenti sociali e alla forma di libertà a cui aspirare quando si è incistati all'interno della trappola umana. Fabian Jung è nei panni del signor Roth Peter, la scimmia che sfida una comunità alla ricerca di una via di uscita, ribaltando il rapporto tra uomo e creature animale. La scimmia, ricordo nel racconto insomma di Kafka, viene catturata e messa in gabbia, ma decide di imitare gli uomini per garantirsi la libertà. E dopo 5 anni gli antropologi si ritrovano ad ascoltare una scimmia trasformatasi in un relatore accademico. Quindi il grottesco, il comico che c'è in questo testo di Kafka rivive sulla scena del Teatro India dal 25 al 30 marzo con questo Una relazione per un'accademia, regia Luca Marinelli. E un abbraccio a tutte e tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.